Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gianni Pacinotti in arte Gipi, regista del film Il ragazzo più felice del mondo, in uscita in sala giovedì 8 novembre. Ben trovato. Ciao, grazie per l'invito. Ci racconti? Che vi racconto? Ho fatto un altro film, è un film pazzo, da ridere. La storia è arrivata lei da me senza che la cercassi. Un giorno ho scoperto che c'era una persona che da più di 20 anni faceva finta di avere 14 anni per avere disegni dei artisti italiani. E ho fatto una specie di documentario comico che poi mi è scoppiato in mano ed è diventato il film. Senti, quando hai conosciuto questa storia, immediatamente hai pensato di filmarla? Sinceramente sì. quando ho visto nell'aprile del 2017 una lettera arrivata a un mio collega fumettista che era identica a una che avevo ricevuto io 20 anni prima, ho detto, cazzo, questa è una bella storia, voglio saperne di più. E ho iniziato subito a pensare a un documentario. Non hai chiaramente rintracciato la persona direttamente interessata? Ho trovato tutto su di lui. Ah, ok. Nome, occupazione lavorativa, tutto quanto. Nel film è stato, poi ho fatto una scelta, però se la dico, certo, di indovinare il film. Certo. E come hai deciso di costruirlo in base a queste informazioni che hai avuto? All'inizio ho pensato, faccio un documentario vero, cioè dove si raccontano le ricerche, ciò che si scopre, eccetera eccetera, e poi mi sono accorto che mi mancava qualcosa e che era quella cosa era la parte buffa, un po' anche delirante, comica, e quindi ho detto vabbè, faccio un documentario comico, cioè dove racconto come quattro incompetenti, cioè io e tre miei amici, si improvvisano documentaristi, tutte le vicende che gli arrivano, il fatto che non avevamo soldi per fare questa cosa, insomma. E ho iniziato così. Dall'ultimo terrestre in poi, la tua avventura cinematografica come si sta sviluppando? Ma dopo l'ultimo terrestre ho fatto altre due cose. Una era un documentario pazzo che si chiamava Smettere di fumare fumando. Sì. Dove in sostanza io raccontavo il mio essere passato da 2 pacchetti di sigaretta al giorno a 0 di polpo e tutto quello che mi succedeva nei 10 giorni successivi. Venne presentato al Torino Film Festival e poi ho deciso di farlo sparire perché c'erano troppe cose illegali dentro, avevo lavorato senza liberatorio, insomma, e quindi adesso è chiuso nel mio cassetto. Poi ho fatto un'altra roba sempre pazza per me, di 1 ora e mezzo, sostanzialmente un film intero che mi sono tenuto per me, sempre per problemi legali, perché sono pazzo e faccio le cose così a scemo. E poi ho fatto questo, dove però mia moglie, che ha fatto da produttrice del film nella prima fase, ha detto sì, però stavolta per farlo come si deve, di modo che poi lo possiamo far vedere in giro, no? Farlo con le liberatorie e tutto quanto, e quindi abbiamo lavorato con coscienza. Al quarto tentativo, insomma, comunque stai affinando una tecnica. Ma sì, lo sai che cosa c'ha questo film? Che è un film molto piccolo, chiaramente. Sì. Che però è molto vicino ai miei fumetti. Cioè, io era tanto che cercavo un modo di raccontare in cinema come quello che ho quando sono al tavolo a disegno, cioè con la stessa libertà, anarchia e possibilità di invenzione sul momento. E lavorando a questo film con una troupe piccolissima che erano dei ninja giovani pronti ad ogni evenienza, penso di esserci arrivato. Si potrebbe dire che l'umorismo e la surrealtà sono due elementi che contraddistinguono il tuo modo di filmare? Assolutamente. qui c'è proprio in questo film c'è la comicità propria. Sai che a tutte le proiezioni che faccio io metto in sala di vedere con partire in prima scena. E questo finisce con una mega risata e sono in sala. Ma proprio ride, lo dico da solo, però finora ho trovato uno che non ci ha visto sul film. E ti dico anche questo, che io con i miei libri ero abbastanza conosciuto per essere uno che fa anche ricerca di profondità dentro se stesso, un po' poeta, cioè, ma come mi piace far ridere, niente proprio. Se venisse Satana domani a chiedermi di scegliere tra mantenere una parte poetica e una parte che fa ridere, sceglierei la parte che fa ridere immediatamente. Quante sale saranno a disposizione? Lo sai che non ne ho la più pallida idea, se cioè non l'ho proprio chiesto, non lo voglio sapere perché sicuramente sono poche e quindi poi se no ci metto male. Però vediamo, cioè, ieri ho fatto una prima a Bologna, un'anteprima a Bologna, il cinema era strapieno, tutti applaudivano, ridevano, vediamo, magari insomma poi aumentano, non lo so, non so neanche come funzionano queste robe, ti dico sulla distribuzione, ti dico la verità. Comunque ridere aiuta, è fondamentale. In questo periodo qui per me è fondamentale. Se non trovo una maniera per alleggerirmi le inquietudini che mi dà la situazione attuale italiana, casino, mi sento male. Filmare come si coniuga col disegno. Beh, sono due robe completamente diverse. Tanto perché quando disegni sei solo come un cane, mentre quando sei sul set è una festa, anche se è molto faticosa. E poi, che devo dire, sono talmente diverse le esperienze. L'unica cosa che forse le lega è la gestione delle inquadrature, delle immagini o i colori, la gestione di queste cose qui. Per il resto sono due mestieri davvero lontani. Però viaggiano bene insieme nel tuo caso. Ma non so se viaggiano bene, so che comunque la mia vera passione, al di là di fumetto, di cinema o altro, è raccontare storie. Ah, E ok, quindi il mezzo con cui lo faccio ha sempre un'importanza di secondo piano. La sì. questione è che se ho una storia per le mani e lei dice ciao, sono una storia, sono arrivata e voglio essere fatta in cinema, la faccio in cinema. Se invece mi arriva in mente sotto forma di disegni, la faccio a disegni. Dipende. E questa passione del racconto da dove ti viene? Ah, non ne ho la più pallida idea. Non lo so, cioè, forse perché non so proprio al 100% nella vita, quella tra virgolette normale, ho bisogno di un altro posto dove stare, o forse perché semplicemente mi diverte, o non ne posso far meno, non lo so, non so manco mai chiesto, cioè, con questa roba qui basta, ci sto. Allora, ricordiamo Il ragazzo più felice del mondo, film di Gianni Pacinotti, Gipi, in uscita in sala il prossimo 8 novembre. Gipi, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si sente presto. Certamente, grazie mille a te e a tutti quanti. Con Alberto Fasulo, regista del film Menocchio, in uscita in sala ora. Alberto, ben trovato. Buongiorno a tutti. Lo presentiamo. Questo è il film forse dove io ho rischiato di più in termini sia di regia che di fotografia e di racconto e quindi sono curioso di proseguire gli incontri col pubblico. Non diamo nessuna indicazione di trama? Esilissima. La trama che possiamo dire è che Menocchio è un uomo come noi, una persona normale, semplice, non è un eroe della Marvel. Ma è un umile mugnaio, contadino, e non può tradire se stesso e quindi per questo deve ingaggiare una lotta contro il potere per poter essere sempre se stesso. Alberto, com'è nato tutto? Sicuramente in modo stratificato nel tempo, probabilmente non poteva arrivare prima, passando dei 40 e dei 40 anni miei è un momento di passaggio. E Menocchio è stato un confronto fondamentale per me e anche se vuoi come testamento per i miei figli e non solo. E, è un film che nasce da un personaggio del mio territorio, ancora una volta, e del Friuli, ma è un film anche con una storia universale che piano piano mi ha fatto rischiare di fare il primo film di narrazione, di costruzione in costume, raccontare una storia del Cinquecento, un personaggio che pur essendo vissuto 500 anni fa è ancora molto attuale. Ecco, è una vicenda nella tua terra viva e con una certa risonanza? Beh, certo, mia terra sì, ormai me ne occhio da 40 anni, esiste un circolo culturale che è anche un editore di giovani di scoperte, ha scoperto Mauro Corona, ha scoperto Pierluigi Cappello e molti altri, ma non solo, è stato raccontato anche da importanti storici, Carlo Ginzburg, Andrea Del Col, che negli anni hanno raccontato come un piccolo uomo possa essere testimone della grande storia. Cosa ti ha affascinato di più nella sua figura? Ma credo che posso dire che la sua statura morale, pur essendo un uomo semplice, è un uomo che, a differenza di Giordano Bruno, che muore dopo 12 anni, che viene bruciato sul Veve dopo 12 anni, Menocchio non è appunto un idealista, ma un uomo semplice che si accorge comunque che contro il potere può solo provarci. E questo mi affascina, perché credo che abbiamo oggi più che mai bisogno di uomini, persone che provano a cambiare, a migliorare questo mondo. Menocchio era uno di questi, era uno che credeva di riuscire a migliorare il mondo in cui viveva. Ecco, in questo senso la storia ha sempre i suoi cicli. In qualche modo riusciamo a imparare dal passato? E questo dipende da noi, da noi spettatori. Dipende da come noi ci rapportiamo alla storia e dipende anche da quanto noi crediamo alla storia. Crediamo alla possibilità che la storia possa ritornare nella sua ciclicità. Il film... diciamo che la grande scommessa artistica è proprio questa, quella di riuscire a raccontare una storia di 500 anni fa nella sua attualità. E questo mi sembra dei risultati fino ad oggi ottenuti dagli incontri col pubblico alla critica, mi sembra che questo sia un risultato condivisibile. Ecco, in questo senso, che tipo di linguaggio hai scelto per questa vicenda? Un linguaggio semplice, alcuni lo dichiarano documentaristico, altri lo dichiarano pittorico, insomma il film appunto solo vedendolo si può giudicare. Sì, per sì. Quanto mi riguarda, io ho fatto delle scelte anche molto rischiose, prendendo gente dalla strada, persone dalla strada, facendo un lavoro di caratterizzazione sui personaggi che portano a un film, potrei dire, istantaneo, un instant movie, cioè un film dove le persone, gli attori davanti alla cinepresa sono concreti, reali, credibili, veritieri. Dicevi di un'operazione rischiosa, che forma distributiva adotterai, Alberto? Ma sai, si parla sempre di mercato, si parla sempre della grande distribuzione, si parla sempre di tutti questi grandi termini. Dopo le mie esperienze con Rumore Bianco, TIR, Genitori, questa volta ho bisogno di avere un rapporto diretto col film, di seguire il film passo per passo, e quindi abbiamo deciso con la casa di produzione proprio di distribuirlo da noi, preparandolo per ogni cinema, per ogni sala, per ogni territorio, facendolo adottare dagli storici dei luoghi e soprattutto pensando a non che un film si possa esaurire in un weekend, in due, in tre weekend, guardando a dei numeri freddi sul box office. Un film deve essere qualcosa di più di un box office, di un risultato economico. Un film è un'operazione culturale, un'operazione, mi spingo a dire, anche umanitaria per certi aspetti, per cui non bisogna, specie in Menocchio, non voglio assolutamente guardare i numeri, ma voglio guardare agli incontri. Il cinema è un incontro tra pubblico e un personaggio, tra un regista e un attore, un personaggio, e quindi credo che Menocchio abbia bisogno di un percorso molto lungo in Italia e anche all'estero, ma in Italia soprattutto, e andando cinema per cinema come una goccia che piano piano mette un seme su una terra che germoglia nel tempo. Sì. Ecco, a tale proposito, ci lasci tutti i riferimenti internet per seguirlo? Ah, per sapere dov'è il film, dove se lo si può vedere, basta andare sul sito nefertitifilm.it e da lì c'è il diciamo, il tasto distribuzione dove compaiono tutte le tutta la programmazione giorno per giorno, e quindi uno può rintracciare. Se non si trovasse un cinema molto vicino, si può fare richiesta e da lì organizziamo una proiezione, un lavoro certosino capillare. Menocchio, un film di Alberto Fasulo in uscita in sala giovedì 8 novembre. Un saluto e un ringraziamento al regista. Alberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e saluti a tutti. Ciao. Con Riccardo Biaden di Kama Productions per parlare del film Still Recording di Saed al-Batal e Ghiat Ayyub, in uscita in sala il 5 novembre. Riccardo, ben trovato. Buongiorno a tutti. Lo descriviamo? Beh, un film davvero importante. È quello che io considero sicuramente un film necessario, necessario per diverse ragioni. Penso che si tratti di un documentario eccezionale perché descrive e permette, rende accessibile un contesto di conflitto anche visivamente, oltre che attraverso la propria narrazione, a cui difficilmente si riesce ad accedere, ma riesce a farlo con un livello elevato di maturità nella costruzione narrativa. È la storia di due ragazzi che nel pieno del conflitto siriano inizialmente tengono delle lezioni di cinema e decidono poi insieme di condurre una radio e iniziare a documentare quello che accade intorno a loro nella Duma. E Saed e Milad sono solo due dei numerosi testimoni di un conflitto che di cui urge sempre di più una narrazione. Noi siamo felici di averlo potuto vedere e premiare al Festival del Cinema di Venezia grazie alla, come dire, all'attenta selezione di Giona Nazzaro per Settimana della Critica, che l'ha portato appunto a Venezia e l'ha seguito in oltre 3 anni di lavorazione, e lì abbiamo scelto di premiarlo io come direttore artistico insieme a Silvia Iop del premio per l'inclusione di Porè, ma anche il pubblico in generale l'ha scelto, come l'ha premiato come film di Settimana della Critica. È stato sicuramente uno dei film più importanti presenti a Venezia quest'anno. Mm-hmm. E ha preso anche il premio Fipresci, e la critica ha scelto di sostenerne in qualche modo anche la distribuzione con una piccola tournée nel Triveneto del Sindacato Critici Italiani, e tutto questo in certo senso ha reso possibile un lavoro appunto di concertazione con diverse realtà, ne ha resa possibile la distribuzione. È un documentario di 2 ore, sappiamo che non è semplice portare in sala lavori di questo genere, e siamo felici di essere riusciti in qualche modo a farlo, insieme soprattutto all'impegno di Reading Bloom, che è la casa di distribuzione di Torino, insieme a Kama Productions ha scelto di distribuirlo in Italia. Siamo in 30 cinema in 30 città italiane e continuano ad arrivare richieste di proiezione, e siamo orgogliosi di questo perché pensiamo che abbia un'importanza non soltanto per questo lavoro, ma anche per così, per abituare, per costruire, per educare un pubblico alla possibilità di vedere in sala anche lavori di questo genere che non sono così facilmente accessibili. Oltre agli elementi che ci hai detto, quali sono gli aspetti di questo film che più ti hanno convinto, Riccardo? Dunque, questo è un film che tratta da una posizione politica chiara, evidente, anti-Assad, contro la dittatura di Assad, racconta però nella sua complessità quanto sia dolorosa, difficile e necessaria la narrazione anche di un conflitto. Penso che al di là delle posizioni politiche sicuramente sia un lavoro che non consegue una tesi politica, non è al servizio di un fine di propaganda, ma al complesso riflette la dolorosa complessità che lo stato di urgenza, di conflitto produce ogni giorno nel quotidiano, anche nelle piccole cose, nei dettagli sulla vita di chi la conduce. E credo che la raffinatezza di questo lavoro in un certo senso sia nella elaborata riflessione critica sul rapporto tra sull'utilizzo delle immagini, sicuramente in relazione alla guerra, ma in un senso più profondo, anche in relazione al tempo, anche in relazione alla necessità del raccontare. E questo taglio prospettico su un conflitto che andrebbe comunque, anche al di là di questo lavoro, di questo approccio, documentato e raccontato e discusso e reso più accessibile possibile, penso che faccia di questo lavoro un lavoro importantissimo che resterà come testimonianza negli anni. Quante saranno le sale ad ospitarlo ad ora e poi i riferimenti web per saperne di più? Sono circa 30, si possono seguire sicuramente i siti di Reading Bloom, Kama Productions per saperne di più, e quelli dei film che hanno, dei cinema che hanno scelto di sostenerlo. Abbiamo cominciato ieri al Betrade di Milano, questa sera all'Apollo con una lunga tenitura fino al 14 ottobre, ogni giorno ci sarà una proiezione. Altre città hanno scelto di ospitare il film anche come premio di Porée, vorremmo che questo si rinnovasse negli anni, e sono le città di Torino, di Bologna, il Cinema Lumière dove lo presenteremo domenica 18, e di Palermo al Rouge Noir, di Venezia al Cinema Giorgione con Circuito Cinema. Abbiamo cercato di davvero lavorare di squadra, nel senso che ci siamo impegnati per cercare di allargare il più possibile le maglie dell'interesse e anche della costruzione di un calendario condiviso, proprio per riuscire a rendere accessibile un lavoro di questo genere che, ripeto, non è davvero facile distribuire. E da questo punto di vista penso che operazioni come queste non sono soltanto Reading Bloom o Kama Productions o Edipore a doverle intraprendere, ma speriamo che le realtà che possano, come dire, allargare le opportunità distributive di questo tipo di lavori siano sempre di più e sempre più coordinate, perché penso che in questo stato distributivo, anche con la crisi e la difficoltà che attraversano e vivono anche le sale e la ridotta libertà di programmazione che hanno, sia molto molto importante saper lavorare appunto congiuntamente di squadra e come rete su progetti che considero prima di tutto di ordine culturale come questo. Still Recording di Saed Al-Batal e Ghiat Ayyub in sala dal 5 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Riccardo Biadene di Kama Productions. Riccardo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi. Con Giulio Casadei, direttore della 24esima edizione del Mad Film Festival a Roma dal 9 al 18 novembre. Giulio, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Ci presenti questa edizione? Sì, è un'edizione particolarmente ricca, questa è la 24esima del Mad Film Festival, che si svolgerà dal 9 al 18 novembre tra il Cinema Savoy, il Nuovo Cinema Aquila e il Museo Macro. In tutto abbiamo 79 film in programma quest'anno, tra lungometraggi di finzione, documentari e cortometraggi. Il programma è articolato e diviso in 9 sezioni, di cui 2 competitive,

potete trovare tutte le informazioni sul programma sia sul sito ufficiale del festival www.medfilmfestival.org o anche sulla nostra pagina Facebook. Poi abbiamo anche i canali social come Instagram. Comunque, per tutto ciò che riguarda le informazioni sul programma, invito gli ascoltatori a consultare il sito web o la pagina Facebook. Volevo aggiungere solo un punto sulla politica tariffaria del festival, ci teniamo molto. Il prezzo intero per le proiezioni di 5 euro, poi abbiamo una riduzione di 1 euro per gli under 26, gli over 65 e i possessori di Bibliocard, e poi una serie di eventi invece che sono completamente gratuiti, penso alla cerimonia di apertura e di chiusura del festival che è Inviti, e poi le tre proiezioni del premio Lux, che sono completamente gratis, così come tutti gli eventi paralleli che si svolgono al macro. Bene. 24esima edizione del Mad Film Festival a Roma, in tre differenti spazi, dal 9 al 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giulio Casadei. Un saluto e un ringraziamento, un in bocca al lupo. Credi il lupo, grazie a voi. A presto. A presto. Jacopo Quadri, regista del documentario Lorello e Brunello, in programmazione a Roma, all'Apollo 11, giovedì 8 novembre. Jacopo Quadri, regista del documentario Lorello e Brunello. Jacopo, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, salve, ciao. È stato premiato al Torino Film Festival. Torino Film Festival. Jacopo, lo raccontiamo brevemente a chi ci sta ascoltando? Sì, ci provo. Allora, è un film semplice, è un documentario su due gemelli in Toscana, in Maremma, due allevatori e agricoltori che vivono da soli in un podere e sono, brevemente per dire di loro, hanno 50 anni, non hanno genitori, non hanno figli e mandano avanti un podere a metà appunto tra la modernità e il passato, cioè hanno i trattori, hanno i mezzi tecnici, però sono soli in un territorio molto molto vasto e hanno come vicini dei proprietari importanti che sono gli Antinori e che diciamo si stanno espandendo e potrebbe essere il futuro della terra di Lorello e Brunello Biondi, potrebbe essere invece di essere presi insomma dagli Antinori, cioè dai vicini potenti. È un po' è un po' emblematico di un mondo contadino che deve fare i conti in qualche modo con le multinazionali, con la globalizzazione. E il film è, però adesso c'è, cioè, un aspetto di questo film, è un aspetto ecco appunto più sociale, più economico, ma in realtà è un film proprio su delle persone che lavorano, che sì, sono loro e alcuni vicini che in qualche modo intervengono nel film. È una signora di 85 anni, Ultimina, che è una loro vicina di podere, è anche un altro filo conduttore del film, in cui appunto lei, insomma, praticamente nel film sono sempre loro che lavorano e ogni tanto intervengono altri personaggi, ecco. Okay. È un film sul lavoro, diviso in quattro stagioni, quindi segue anche proprio l'andamento delle stagioni, è come se fossero quattro film messi insieme, perché ogni stagione insomma ha il suo titolo, ha il suo capitolo, e più o meno sono quattro film di 20-25 minuti. Sì. Senti Jacopo, come hai conosciuto questa storia e come hai pensato e deciso che fosse meritevole di un film dedicato? Allora, a parte che io vengo, insomma, a parte il mio lavoro di montatore, ma come documentario, appunto, negli ultimi anni ho fatto due documentari su due maestri del teatro, sì, su due persone famose, in cui in realtà bastava filmarli per loro, insomma, ci davano automaticamente la forza, che erano appunto Luca Ronconi, sì, e Eugenio Barba. E ora volevo continuare questa ricerca, diciamo, sulle persone, ma come dire, ripaltando la prospettiva, prendendo due persone appunto non famose, non importanti, non eccezionali, e di trovare l'eccezionalità nella loro semplicità, e comunque partiva, voleva essere un film proprio sul lavoro e sulla conoscenza anche proprio del lavoro in campagna, e è nato dalla frequentazione di quei luoghi, Maremma, Toscana, Sovana, e da un certo amore proprio che ho per quei posti, e era anche un po' una scusa per stare lì un periodo più lungo, anzi quattro periodi di sì, appunto un mese ogni stagione, e di conoscere meglio queste persone e il loro lavoro. Spesso per me fare un film è un pretesto per riuscire a conoscere meglio delle persone, delle situazioni che solo facendoci un film puoi sì, veramente conoscere, cioè proprio entrarci. E nel momento che loro, i gemelli Lorello e Brunello Biondi, hanno aderito al progetto, perché comunque c'era una stima reciproca e comunque credevano nel fatto di che si parlasse in qualche modo di loro, perché si sentono veramente ai margini e sono invisibili come tante persone, insomma, che non abitano in città, e quindi insomma hanno aderito al progetto e il film si è fatto insieme. Sì, sì. Senti, cosa hai amato di questi due protagonisti? Ma quello che amo è la loro, diciamo, la leggerezza anche nel lavorare 20 ore al giorno, il non lamentarsi mai di niente, che non vuol dire subire le situazioni, ma certo, vuol dire avere un atteggiamento verso le difficoltà e verso la vita che insomma mi piace, ecco, c'è un insegnamento nell'affrontare, a parte nel lavorare sempre, farlo bene, farlo in fretta, nel senso che ci sono talmente tante cose da fare, che però poi non vuol dire non potersi anche fermare nel parlare se si incontra un amico, ma questo, vabbè, poi il rapporto, questo è più semplice come pensiero, insomma, però il rapporto con ovviamente con la natura, anche lì certo è un continuo dire, ad esempio l'anno scorso non pioveva, di quanto era difficile l'anno scorso, quest'anno in realtà la grande siccità, cioè di subire ogni mattina, ogni giorno i problemi legati appunto anche al cambiamento climatico, però a non rinunciare mai a trovare un'altra soluzione. Infatti loro in realtà stanno cambiando molto, anche se sono in due soli, se non hanno una vera struttura aziendale, però se ad esempio non piove, che facciamo? Piantiamo degli ulivi, perché gli ulivi hanno più resistenza, però lo facciamo in un certo modo, non so, a trovare sempre una soluzione, sì, perché comunque bisogna andare avanti, sì, sì, comunque sì, la terra non bisogna abbandonarla, e anche se quasi sei in perdita lo fai lo stesso, capito? Sì. Non ti puoi mai dire no, smetto, cioè non esiste, come anche non puoi mai dire vado in vacanza o vendo tutto agli antinori, appunto, sì, perché certo se vendi tutto hai poi le possibilità di andartene anche ai tropici, ma non si può fare, perché hai quasi una missione di vita a cui non puoi rinunciare, che sì, è lavorare la tua terra, sì, sì, e badare ai tuoi animali, sì, è molto semplice però questo in qualche modo non potersi chiedere e non potersi lamentare è insomma qualcosa di molto interessante, ecco. Siccome Torino ha avuto veramente un grande, non solo successo diciamo di giuria, ma proprio di pubblico, è un film appunto che nella sua semplicità interessa molto, può interessare molto e può anche molto far parlare, quindi io credo che troveremo il modo insomma di farlo vedere. Ciao Jacopo. Ciao. Jacopo Quadri, regista del documentario Lorello e Brunello, in programmazione a Roma, all'Apollo 11, giovedì 8 novembre. Con Rodrigo Diaz, direttore della 33esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, dal 10 al 18 novembre. Rodrigo, ben trovato. Grazie a voi, perché ogni anno non ci dimenticate. Un festival storico, raccontiamo un po' la sua storia, appunto, com'è nato. No, oddio, sai, siamo arrivati all'età di Cristo, speriamo di moltiplicare, come racconta la storia, anche noi meriti, film, qualità e staff, che è una meraviglia in questi ultimi anni come si è andato a configurare un equip di lavoro, tutta gente che proviene, tutti i neolaureati, tutta gente giovane che è rimasta a lavorare con il festival dopo essersi laureati, no? Quindi sì. Visto che noi abbiamo delle convenzioni con 7 università, e questo evento è diventato per loro una sorta di scuola di vita, perché si imparano tante cose. E quest'anno forse ancora di più, per il fatto che già all'inaugurazione conferiamo due riconoscimenti, due premi Salvador Allende. Normalmente facciamo solo uno, ma questa volta ne abbiamo deciso di farne due, di conferire due. Uno a Fernando Birri, del nostro presidente, che se ne andò l'anno scorso. Fernando ha ragione ancora di più a Trieste, perché lui, la famiglia è di origine friulana. E poi a queste donne che rischiano di, ormai tra poco non ci saranno più per la loro età, sono la madre di Plaza de Mayo. Noi abbiamo, come dire, scelto una di loro in rappresentanza di tutte, perché ne riconosciamo a tutti un grande coraggio, una grande tassa di civiltà, ed è Avera Di Giovanni Farage, che andò via dall'Italia, la sua famiglia, nel 38 in seguito alle leggi razziali. Nel conferire il premio Salvador Allende a Avera Di Giovanni lo facciamo a tutte quelle donne argentine che con tanto coraggio hanno difeso diritti fondamentali all'inizio nella loro totale solitudine. Oggi non tutta l'umanità, ma buona parte, la parte migliore, un po' dovunque riconosce il loro, questi grandi valori di cui ancora oggi sono portatrici, e innanzitutto in questo momento la memoria. E noi, a Vera, che ha questo vincolo, è italiana, perché lei è italiana, era corrispondente anche dell'ANSA in Argentina, sposò questo triestino che scappò dall'Italia per le stesse ragioni, si sposarono, hanno avuto una sola figlia, sparita ai tempi della dittatura. Quindi noi siamo molto fieri di... Io sono, pensando ai miei giovani, sono circa 40 giovani che concorrono a rendere possibile questo progetto a Trieste, di avere e di vivere questi momenti così importanti di crescita, e quindi che possono capire che il cinema ci offre anche tantissime occasioni per educare, per informare, per essere migliori cittadini. Quanti sono le opere presentate in questa edizione? All'incirca 110, di cui una settantina è sottotitolata in italiano e il resto volutamente in spagnolo, perché vanno ai licei che insegnano spagnolo o al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Devono rafforzare o consolidare lo spagnolo o capire le varianti, visto che ogni paese parla lo spagnolo a modo suo. Sì, sì. Com'è suddiviso il festival? Come sempre, concorso, contemporanea, una retrospettiva che quest'anno dedichiamo a Rosenberg Cariri, un grande cineasta brasiliano che si è occupato sempre delle tradizioni, delle culture locali, del mondo indigeno, della religiosità popolare e così via, del suo profondo nord-est. Poi abbiamo ovviamente un omaggio, sono 7 film che abbiamo scelto per Fernando Birri, poi abbiamo un omaggio, e questa è la parte divertente che ci offre il cinema, facciamo, come dire, ci aggiungiamo alle celebrazioni dei 100 anni della Triestina, una squadra storica, dedicando una sezione al calcio sudamericano, quindi grazie anche a O Globo del Brasile potranno vedere a Trieste i grandi di una volta, Garrincha, Pelé, e poi naturalmente Maradona, e poi altri grandi che sono meno conosciuti in Italia, ma che hanno fatto storia nel calcio sudamericano. E quindi lo facciamo a San Giovanni, questa è l'ultima domenica, solo calcio, il 18, domenica 18, in non è di un continente, poi perché ha un vincolo con l'Italia talmente stretto da ogni punto di vista che ripetere la tipicità dei vincoli ormai diventa quasi una banalità. Per quanto riguarda gli autori, ci saranno e autrici, ci saranno ospiti previsti? Verrà per esempio Silvio Caiozzi, il cui film adesso è il film cileno che concorre all'Oscar. Ci sarà Gonzalo Justiniano, che l'anno scorso era con il suo film I Cabros de Mierda al Festival di Roma. Ci saranno 3-4 registi spagnoli, perché stiamo aprendo un po' di più alla Spagna per i vincoli, per le coproduzioni, per l'istoria, no? Abbiamo una quantità di ospiti che non riusciamo a fermare, perché la gente, il festival gode di un prestigio esagerato in America Latina, e allora la gente chiede l'invito soltanto e poi si paga il biglietto e viene, e le devi offrire un po' di ospitalità, quindi siamo ogni anno alle prese con difficoltà di ogni tipo, proprio per questo, perché non siamo noi che fissiamo le regole, nel senso che io ti faccio un biglietto funzionale a quando ti posso venire a prendere, invece loro, venendo per conto loro, arrivano a Venezia, arrivano a Trieste, arrivano in treno, arrivano in macchina noleggiata, cioè, e saranno una sessantina per un evento che ha un finanziamento tutto sommato assai modesto, è una difficoltà. Se non fosse per lo staff, ecco, che ti lavora volontario, ma il lavoro volontario che non lo vedono come irresponsabile, ma tutt'altro, ci possiamo permettere di fare di creare un evento che, per darti solo un'idea, sabato chi conferirà il premio Salvador Allende a Vera Vigevani sarà il rabbino capo di Trieste. Questo mi ha riempito d'orgoglio, perché dà l'idea del rispetto che c'è anche nella città rispetto all'evento che riproponiamo ogni anno. Ho visto per la programmazione, chiaramente come riferimento c'è il sito internet del festival. Che, sì, da 2 giorni è abbastanza aggiornato, abbastanza, anche Facebook ne scaraventiamo ogni giorno delle novità, per esempio questo giovedì, che quando arriva Vera a Trieste, Vera ha 92 anni e è quasi cieca, avremo un incontro con la comunità ebraica triestina. E quindi abbiamo eventi collaterali di questo tipo che naturalmente sono molto importanti e molto significativi per la storia anche della città. A momenti, anche senza pensarci, ci mettiamo dentro le problematiche italiane e in questo caso triestine, con il dibattito quotidiano, ma anche con la storia. Sì. Allora, ricordiamo la 33esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, dal 10 al 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Rodrigo Diaz. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille per la cortesia e sensibilità. Buona giornata a te. Grazie. Ciao. Ciao. Con Alessandro Scillitani, direttore della 17esima edizione del Reggio Film Festival International Short Film Contest, dall'8 al 19 novembre. Alessandro, ben trovato. Buongiorno a tutti. Raccontaci. Appunto, è un festival che ormai dura da tantissimo tempo, arrivano corti da ogni parte del mondo e quindi abbiamo pensato che fosse importante dare un grande attenzione al fatto che il cinema in un qualche modo è specchio del mondo. E il tema infatti è specchio, e essenzialmente l'intenzione è quella di riflettere sul fatto che in un momento storico anche di difficoltà anche per l'Europa nel comprendere l'altro, il corto che arriva ovviamente da ogni parte del mondo può servire anche per aprire dialoghi, per conoscere meglio gli altri mondi. E quindi abbiamo un sacco di presentazioni, apriamo peraltro con un maestro di effetti speciali di Hollywood, che sarà a Reggio Emilia appunto per aprire questa edizione del festival, proprio l'8 novembre alle 17. Si tratta di John Rosengrant, che da anni realizza effetti speciali per film come Jurassic Park, Avatar, Robocop, insomma, e anche La forma dell'acqua, per dire, insomma, quindi si tratta di un'occasione straordinaria. Lui sarà con Gigi Coelho Dannon, che è fra i produttori dalla prima puntata di Criminal Minds. E poi avremo un incontro con Renza Mastrella, che sono qui a Reggio Emilia in occasione del festival aperto. Ci sarà uno spettacolo alla sera, ma al pomeriggio vedremo i loro cortometraggi. Loro sono i Leoni d'Oro 2018 alla carriera per il teatro, e quindi sarà un altro incontro davvero molto bello. E poi il Cinebus, che è un'edizione che ha la sua terza edizione, l'opportunità di conoscere il cinema attraverso dei grandi del teatro, che sono Monica Morini, Bernardino Bonzani e la loro compagnia del Teatro dell'Orsa, la Casa delle Storie, e loro appunto attraverseranno le vie del centro di Reggio Emilia per raccontarci storie felliniane, storie legate anche al fatto che appunto noi siamo sempre divisi fra Netflix e le nuove tecnologie e la vecchia sala, però in effetti la cosa che conta di più molto spesso è proprio il fatto di immaginare la magia dei primi tempi del cinema, ma anche la magia di oggi nel fruire delle opere al cinema, così come succederà soprattutto da sabato sera tra il Teatro San Prospero e il Cinema Rosa, il mitico cinema gestito direttamente dal comune di Reggio Emilia, che appunto ospiteranno decine e decine di corti selezionate fra migliaia di cortometraggi che sono arrivati da ogni parte del mondo. Ecco, in quante opere saranno presenti al festival? In tutto 83, divise in varie sezioni. Come dicevo, in particolare abbiamo dato attenzione forte anche al tema dello specchio, del mondo. Ci sono corti che arrivano dall'Iran, da altre parti dell'Europa e da vari posti, e che raccontano, cioè, appunto, anche il tema della migrazione, della difficoltà delle storie anche dei confini, dell'attraversamento dei confini. Poi ci sarà una sezione dedicata ai bambini, che ormai alcuni anni viene istituita anche un'opportunità per, soprattutto sono corti di animazione, sono corti appunto fruibili anche dai più piccoli. Abbiamo, in questo senso, abbiamo attivato quest'anno una forte collaborazione. Si sa che Reggio Emilia è nota un po' in tutto il mondo per i cosiddetti asili più belli del mondo, e quindi abbiamo questo centro internazionale conosciuto, molto conosciuto, e in quell'occasione sarà possibile, per la giornata dei diritti dell'infanzia, di fruire i corti che arrivano veramente da ogni dove. Poi un'altra novità importante di quest'anno sicuramente sono gli incontri con gli autori. Sì. Abbiamo diversi scrittori, chiaramente in molti casi si tratta di sviluppare appunto anche la tematica del dialogo. E ci saranno Diego De Silva e Maurizio De Giovanni, poi abbiamo Anna Migotto e Stefania Miretti, abbiamo Viviano Domenici, abbiamo Giorgio Scianna. Sono vari autori che appunto si alterneranno in una serie di incontri letterari pomeridiani. E poi non mancano gli spettacoli. In effetti apriamo, diciamo, le serate con un concerto delle sorelle Marinetti, e poi ci sarà Caterina Palazzi, che farà un omaggio a Dracula con il suo contrabbasso. Faremo un incontro anche con un illustratore fumettista molto, molto bravo, che si chiama Daniel Quelio, che ha fatto anche un libro dedicato al cinema, che si chiama Indovina che Tiberio viene a cena, dove appunto si è divertito a parafrasare i vari titoli e le varie storie legate ai titoli dei film ai personaggi più noti. Ecco. Più in generale, la prima considerazione che mi viene in mente rispetto al cortometraggio è che la rete sicuramente ha moltiplicato i canali, ma la sala continua ad essere un po' off limits. Beh, ma certamente, anche perché il senso è un po' questo, no? Noi sappiamo qual è l'elemento vitale per il cinema e per l'arte in generale, è la scelta, è l'ascolto e il confronto. La rete è una grandissima opportunità, io con un click posso arrivare a tantissimi contenuti, ma certamente la sala fornisce quello. Noi intanto il Raggio Film Festival è organizzato da uno staff che tutto l'anno lavora proprio per scegliere con cura le opere, perché è da sempre comunque un festival che si rivolge principalmente a un pubblico più che agli addetti ai lavori, quindi c'è proprio questa premura nel cercare di organizzare le serate in modo da offrire un programma vario e fatto di opere davvero di grande qualità, e questa selezione naturalmente non te la può dare la rete, te la dà di fatto il fatto di avere una di avere le scelte, e poi soprattutto appunto nella sala c'è il calore degli altri, il confronto, la condivisione, c'è la possibilità in molti casi di ascoltare direttamente i registi che vengono a raccontare qualcosa della loro opera, e questo sicuramente è un valore aggiunto che è imprescindibile. Sì, sì. Allora, ricordiamo la 17ª edizione del Reggio Film Festival International Short Film Contest dall'8 al 19 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alessandro Scillitani. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto e grazie a tutti. Ciao. Con Simonetta Grechi, curatrice della 17ª edizione del Clorofilla Film Festival, di cui ci saranno le giornate conclusive a Firenze dall'11 al 13 novembre. Simonetta, ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Allora, facciamo un bilancio dopo varie tappe in vari luoghi d'Italia e poi la sede centrale chiaramente del corpo del festival a Festambiente ad agosto. Tracciamo un po' un bilancio di questa stagione. Sì, dunque, come giustamente dicevi tu, siamo partiti un po' da lontano, nel senso che abbiamo iniziato nel mese di maggio a Bologna e poi appunto chiudiamo martedì prossimo il 13 allo Spazio Alfieri di Firenze, che ormai da 6 anni ci ospita per le serate finali. Un bilancio. L'edizione è andata bene in termini di pubblico, bene diciamo anche sulla qualità del lavoro che ci sono arrivati, per cui siamo contenti. In realtà poi nella testa di Clorofilla c'è quella di comunque proseguire anche subito dopo le serate finali, certo, perché per dare appunto comunque continuità a quello che stiamo portando avanti, che è un percorso che non si esaurisce appunto nella limitatezza di pochi giorni di un festival, ma che appunto noi vogliamo che il nostro messaggio sia in qualche modo continuativo, per cui anche dopo Firenze magari faremo altre cose su Grosseto, che poi è la nostra sede. Poi ci sono stati anche all'interno della 10 giorni a Festambiente anche diversi ospiti, autori e autrici dei lavori che abbiamo proposto. Esatto, esatto, tu lo sai bene perché sei ormai da anni la nostra anima romana. Sì, abbiamo ospitato diversi a parlare dei loro lavori, così accadrà anche a Firenze proprio nei prossimi giorni. Infatti ci sarà Renzo Carbonera per Resina, Paolo Tripodi per Asino Vola, Cosimo Damiano D'Amato per Prima che il gallo canti, il documentario su Don Gallo. Insomma, sì, cerchiamo ogni giorno di avere almeno uno o due ospiti per parlare dei lavori che riusciremo a presentare. Libri compresi? Sì, libri compresi, giusto, bravo. Avremo infatti nella giornata conclusiva, che rappresenterà poi un ponte con il Festival dell'Economia Civile, che si svolgerà proprio nei giorni immediatamente successivi a Campi Bisenzio, avremo tutta una giornata dedicata all'economia civile, e in questa, diciamo, giornata abbiamo invitato il poeta paesologo Franco Arminio, che ci parlerà delle sue poesie, dei suoi libri, ma anche probabilmente, insomma, di tutto il lavoro che sta facendo nel sud, nel suo paese. Come saranno articolate queste tre giornate? Dunque, partiamo con un film d'animazione, I racconti di Parvana, che è un film che è stato candidato agli Oscar nel 2018 come miglior film d'animazione. Poi avremo i corti del concorso e in chiusura Asino Vola. Questo per la giornata di domenica. Lunedì invece iniziamo con il documentario di Don Gallo alle 18, proseguiamo poi alle 19.30 con la presentazione del libro L'ultima sequenza di un film di Jarmusch, sempre di Cosimo Damiano D'Amato. Alle 21 avremo tre corti del concorso e in chiusura il documentario Alla salute di Brunella Fili, che racconta, diciamo, la storia di Nick Di Fino, una storia che è di malattia ma anche di rinascita. La giornata di chiusura, come dicevo prima, è dedicata all'economia, all'economia civile in particolare, e quindi tutto ruoterà attorno a questo argomento abbastanza ampio. Iniziamo alle 17 con il documentario Ciri di Vento di Nicola Ferrari, e alle 18.30 il libro di Franco Arminio Resteranno i canti, e poi un'esperienza molto particolare, quella di Funky Tomato. Funky Tomato è un progetto che promuove un'agricoltura pulita e lontana, diciamo, dallo sfruttamento, dal caporalato. A raccontare questa esperienza ci sarà Corrado Tabia, e insieme a lui un DJ che racconterà insieme a Corrado attraverso la musica del cinema, insomma, si alterneranno, insomma, per raccontare questa esperienza del tutto particolare, prima di presentare il documentario La ricetta, che parla appunto proprio di Funky Tomato. Sempre all'interno di questa serata ci sarà la premiazione del Clorofilla, e in chiusura Resina di Renzo Carbonera, un film ambientato in una piccola comunità dove il regista ha adottato un protocollo green della regione Trentino, qui, insomma, rientra anche questo nel tema dell'economia civile che sarà trattato appunto nei giorni successivi a Campi Bisenzio. Allora, a questo punto ricordiamo l'appuntamento a Firenze dall'11 al 13 novembre con le serate conclusive della 17ª edizione del Clorofilla Film Festival. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Simonetta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. A presto, a presto. Con il professor Fabio Introini, collaboratore all'indagine dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo per la sezione del rapporto relativa ai millennials, per parlare del rapporto Cinema 2018 che sarà presentato a Milano alla Biblioteca di Morando il prossimo 9 novembre. Professore, ben trovato. Buongiorno. Cosa ci racconta di questo rapporto? Allora, c'è una fotografia di una interessante presente, ma veramente anche il futuro del cinema, nel senso che appunto sono questi giovani che poi saranno gli eventuali consumatori di questa forma audiovisiva anche in futuro. E il primo dato che ci colpisce, sul quale ci possiamo soffermare, è che appunto i millennial italiani, almeno quelli che il nostro progetto di ricerca ha raggiunto, hanno una significativa passione per il film, quindi sono molto interessati al film, ne consumano parecchio. D'altro canto, questo forte consumo di film non si rispecchia in maniera altrettanto forte in una frequenza delle sale cinematografiche. Ecco, esiste un delta tra queste due esperienze. Un conto è vedere il film, e allora ne posso vedere anche tanti in una settimana, c'è addirittura un 12,6% di giovani millennial che dichiarano di guardare un film al giorno, che è più alta di quell'8,9% che invece dichiara di non guardarne neanche uno sostanzialmente, o addirittura meno. Dicevo, questa passione però non si rispecchia nella frequenza alle sale, che invece è molto inferiore, se teniamo conto che vi si reca più di una volta al mese meno di un quarto del campione, quindi diciamo 18,6% dei millennial, mentre una buona quota del campione, l'81,4%, vi si reca una volta al mese o anche meno. Qual è il campione analizzato? Dunque, la ricerca si è svolta su un campione di oltre 2000 persone, ecco, per l'esattezza 2045 giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni, ed è stata realizzata nell'estate del 2017. Rispetto ai loro gusti, cosa emerge? Dunque, rispetto ai loro gusti emerge una forte, diciamo così, componente degli aspetti più ludici e di intrattenimento della visione filmica, come del resto è confermato non solo dai generi che prediligono, ma anche dai significati che associano all'esperienza, diciamo, della visione del film in generale, e poi di quell'andare in sala che, come dicevamo, non è sempre però molto praticato. Andare al cinema è soprattutto una forma di intrattenimento e di divertimento da vivere e trascorrere insieme ai amici, quindi diciamo anche un'occasione di socialità. Proprio per questo i generi più premiati sono quelli più legati, diciamo, appunto al consumo di intrattenimento. Quindi abbiamo la commedia, il thriller, il fantasy e l'avventura come i generi, diciamo, prediletti. Si collocano più, diciamo, a margine delle preferenze contenuti di tipo, diciamo, più impegnato, come per esempio i film drammatici. Cinema di tipo sentimentale piace invece, come forse è legittimo e logico attendersi, al pubblico femminile, mentre appunto il pubblico maschile preferisce molto di più il genere thriller. Nel consumo culturale il cinema dove si colloca? Dunque, questa è una bella domanda, interessante, nel senso che se andiamo a guardare come queste preferenze di genere cambiano, per esempio in base al titolo di studio, scopriamo che per esempio i laureati, oltre a riconoscere che il film, che andare al cinema è un'occasione di divertimento, riconoscono anche la valenza culturale del film. Io direi che però un aspetto interessante che ci permette di collegare in una maniera forse un po' diversa il rapporto tra cinema e cultura è il fatto che i millennial sembrano ormai assolutamente, diciamo così, competenti del linguaggio cinematografico, cioè sanno in qualche modo decodificare correttamente i testi filmici, e quindi sanno, come dire, modulare le loro preferenze in base a questa competenza con il linguaggio cinematografico. Di sicuro piace una visione di film spettacolari, e in questo caso, ecco, dichiarano che è interessante vedere questo tipo di film in sala. Probabilmente il film di, come dire, contenuto più culturalmente denso ed elevato vengono invece fruiti in altre forme, privatamente o domesticamente. Però ecco, sottolineerei proprio questa competenza nella decodifica del linguaggio cinematografico e saper commisurare il tipo di visione al tipo di contenuto e di esperienza proposta dal film. Rispetto ai gusti, abbiamo dei dati più precisi rispetto alle preferenze? Sto pensando ad Hollywood o al cinema italiano o al cinema mondiale in generale? Come dicevo, viene più premiato il film, diciamo, hollywoodiano, sì, o sì, americano, proprio per via del fatto che la visione del film, sia essa domestica o anche in sala, è spesso appunto associata ad un'occasione di entertainment, quindi il film in qualche modo è un momento di divertimento, e questo tende a premiare i generi più spettacolari che spesso sono legati alle grandi produzioni, diciamo, statunitensi. Quindi immagino anche rispetto alle proporzioni tra multiplex e monosala. Sì, ecco, diciamo che a questo proposito Due Terzi del Campione dichiara di preferire la visione in un multiplex. C'è però un buon 30% che riconosce ancora il valore della sala, diciamo, più piccola, in cui, diciamo, magari sono meno i servizi offerti, però c'è, come dire, un'atmosfera più intima, accogliente e familiare. Poi non è detto che le piccole sale abbiano per forza servizi, non abbiano servizi, ecco, certo, diciamo, ai multiplex, che sono le proprie facility del divertimento, che quindi offrono una serata che comprende cena, cena, dopo cena, la cosa che non si può confrontare con. Però a sua volta può sviluppare come altri servizi, sono appunto lavorare più sulla, come dire, fidelizzazione sociale, possono privilegiare per esempio dei servizi, diciamo così, per un pubblico legato, in questo caso magari non ai millennial, ma a pubblici come le famiglie. E comunque, appunto, ripeto, una buona percentuale, non, assolutamente non residuale, non dimentica le sale di piccola dimensione, e anche, diciamo così, dando uno sguardo al futuro, i millennial sono convinti che anche per le piccole sale ci sarà ancora spazio e margine di lavoro. Sì, stavo pensando anche al fatto che, ad esempio, sempre più i piccoli film hanno i rispettivi autori che li seguono nelle sale con presentazioni e incontri con il pubblico, quindi questo è uno dei modi in cui le monosale si difendono e valorizzano la propria offerta culturale. Esatto, questa mi sembra un'osservazione assolutamente pertinente, rientra in quell'idea appunto della piccola sala come luogo diverso in cui, come dire, appunto, avere modo di fare un'esperienza diversa rispetto a quella del multiplex. Chiaramente, tanto al fatto che la maggioranza dichiara che andare al cinema è un'occasione di divertimento e di evasione, poter andare in un luogo che offre, come dicevo prima, tutta una serie di altri servizi complementari, dallo shopping alla ristorazione, è più congruente con quell'idea di cinema. Però proprio per questo, diversificarsi in maniera significativa rispetto a questo tipo di offerta può essere la carta vincente delle piccole sale. E per quanto riguarda il rapporto, ci può lasciare dei riferimenti web per saperne di più? Dunque, io posso intanto indicarvi il titolo della pubblicazione che abbiamo appunto curato con la Fondazione Ente dello Spettacolo. Il titolo è appunto Rapporto Cinema 2018, spettatori, strumenti e scenari, in cui appunto si trova anche la sezione dedicata ai millennial che abbiamo adesso commentato insieme. Per altri riferimenti si può consultare il sito del Rapporto Giovani, www.rapportogiovani.it, che è, diciamo, una sezione del sito dell'Istituto Toniolo, che diciamo così, ospita al suo interno le strutture dell'Osservatorio Giovani. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento a Milano, alla Biblioteca di Morando, il prossimo 9 novembre con la presentazione del Rapporto Cinema 2018. Un saluto e un ringraziamento al professor Fabio Introini, collaboratore all'indagine dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo per la sezione relativa ai millennials. Un saluto e a risentirci presto. A presto di nuovo.

Daniele ritiene che meriti un grandissimo rispetto e che invece sono stati le famiglie stesse a non rispettare, no? Restare ristrutturando spesso le case in modo totalmente privo di attenzione verso la storia che queste case potevano raccontare. Ecco, Daniele questa storia ha cercato di riscoprirla e di renderla fruibile per i turisti. In questo modo ha creato anche un ciclo di economia sostenibile in un villaggio che era quasi completamente abbandonato, dove oggi invece si sono formate nuove strutture alberghiere, nuovi ristoranti, e quindi ricomincia a girare un'economia che un tempo si pensava completamente sopita. Il problema di Daniele è che in realtà più che un imprenditore è una sorta di poeta, insomma, per cui crede molto più nell'ideale della sua impresa che nella sua concretezza, anche se poi lui ritiene che il fatto che l'impresa sia sostenibile sia la parte più importante del suo progetto, e quindi ha avuto molte difficoltà, insomma, nella realizzazione di questo albergo diffuso, sebbene in realtà l'idea abbia avuto molto successo, in particolare all'estero, vengono a trovarlo da luoghi anche molto lontani. E poi ha aperto anche una struttura analoga anche a Matera, quella ancora più di successo forse di Santo Stefano. E poi il mio film finisce con una sorta di lieto fine, insomma, nonostante la storia di Daniele sia molto tormentata, alla fine riesce a ottenere qualcosa che però non voglio raccontare, altrimenti rovino un po' il finale del film. Insomma. Ecco, come avevi deciso di raccontarla? Guarda, io inizialmente ero interessato al contenuto delle idee di Daniele, no? Per cui per me il tema del rispetto del territorio è un tema molto importante. In realtà nel corso delle riprese la figura di Daniele è una figura molto complessa e che anche qui non voglio raccontare troppo perché preferisco che uno la scopra vedendo il film, ha preso un po' il sopravvento, per cui il film la parte di Santo Stefano è diventata una sorta di corollario a un ritratto di Daniele Kilgren, che è un ritratto che secondo me meritava di essere fatto. Mm-hmm. E proprio perché è una personalità, insomma, molto, molto interessante, anche metaforica forse da certi versi. Mm-hmm. È un modello che sta avendo dei riscontri in altri casi in Italia, sempre nei paesi in via d'abbandono? Allora, Daniele vorrebbe che questo succedesse, perché lui si fa promotore di queste idee, vorrebbe che fosse più imitata di quanto non lo sia effettivamente. Diciamo che l'idea di Daniele, così come lui l'ha realizzata, io non l'ho mai vista replicata. Ci sono luoghi analoghi, ma in realtà sono più degli alberghi convenzionali, dove sì, sono create delle commodities molto, molto facili, diciamo, e facili da vendere. L'idea di Daniele è un'idea molto più complessa, con anche degli studi antropologici alle spalle, per cui insomma ha un rigore che sinceramente non ho mai visto replicato da nessuna parte. Sarebbe bello che qualcuno prendesse spunto e lo rifacesse altrove, perché i luoghi da recuperare sono tanti e possono tra l'altro comunque anche rendere se uno riesce a fare un lavoro di impresa intelligente e ben ragionato. Secondo questa sua lettura comunque ci sono invece altri casi di paesini nel sud recuperati proprio grazie ai migranti che li hanno ripopolati. Ce n'è più di un esempio nel meridione d'Italia. Ah beh, certo, quello è un caso molto interessante, è un po' diverso dalla realtà di Daniele, ma è sicuramente una realtà che può ridare vita a paesi abbandonati. Daniele tra l'altro vuole aprire un albergo diffuso in Ruanda, per cui fa il percorso opposto, cioè è lui che va perché lui ha un programma di aiuti in Ruanda, un programma di aiuti sanitari in Ruanda, che ha sostenuto con le sue forze per molti anni, al punto da riceverne anche un discreto danno economico, e adesso ha avuto l'idea di aprire una sorta di albergo diffuso un po' simile come idea a quello di Santo Stefano di Sestagno, però appunto in un villaggio ruandese. No, l'esempio che fai tu è senz'altro un esempio virtuoso dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, un po' diverso da quello di Daniele, ovviamente. Certo, però conta il fatto che si sfrutti effettivamente un territorio che nessuno più sfrutta in modo intelligente e in modo virtuoso, quindi vale assolutamente anche quel discorso. Un esempio che si avvicina di più è quello di alcuni paesini del centro Italia, degli Appennini devastati dal terremoto, in cui comunque alcuni singoli, alcune realtà, con molti sforzi e molta fatica, stanno cercando di farli rivivere in tal senso, insomma. Sì, tra l'altro, a proposito del terremoto, un fatto interessante, io quando andai a Santo Stefano, il terremoto aveva appena avuto luogo, purtroppo, e l'unica costruzione che era crollata era la torre medicea che dominava il villaggio e che era in realtà stata ristrutturata col cemento in tempi recenti, che si potrebbe pensare che sia solo una coincidenza, ovviamente non c'è una dimostrazione scientifica che ci sia un motivo. Le case costruite seguendo la tradizione sono rimaste in piedi e quelle costruite senza nessuna attenzione, diciamo, verso una cultura vecchia di secoli, insomma, sì. È crollata. Certo, il terremoto ha fatto molti danni anche lì, comunque, sì, ovviamente, sì. Però una buona parte del villaggio si è salvata senza troppi danni. Ed è l'abbandono in molti casi che ha fatto sì che... Sì, questo vale da nord a sud, in tutti i piccoli le piccole province, insomma, l'abbandono dei paesi è graduale, invecchiamento della popolazione, insomma, è un fenomeno diffuso in tutte le latitudini. Sì, assolutamente. E in questo senso l'impresa di Daniele ha creato un'inversione di tendenza, tanto sì. Che c'è chi da Pescara a questo punto torna a Santo Stefano perché trova più facilmente lavoro lì che a Pescara, paradossalmente, no? Sì, sì, sì. E sì. Quindi sicuramente c'è modo di valorizzare l'economia. E ovviamente le strade percorribili sono tante, no? Perché c'è anche la possibilità di recuperare il lavoro agricolo, cosa che non è assolutamente nel focus imprenditoriale di Daniele, sì, che ha un'impresa di tipo turistico e, se vuoi, culturale, ecco. Sì. Ma ovviamente le strade possono essere mille e una, insomma. La sì. Sua è una percorribile e funziona. La cosa interessante è che funziona molto sì. Bene. Sì, sì, sì, sì. Quindi è senz'altro un modello da tenere presente. Poi sì. I modelli possono essere tanti e tutti possono essere interessanti. Quello che io trovo estremamente affascinante del suo modello è che mette al centro il discorso del rispetto del territorio, sì. Dell'attenzione all'integrazione tra costruzione dell'uomo e ambiente, che è una tradizione che in realtà, secondo me, noi italiani abbiamo avuto per millenni e abbiamo un po' perso veramente dalla seconda parte del secolo scorso in avanti, insomma, per cui abbiamo devastato molta parte del nostro paesaggio. Alla fine ci si chiede veramente in parte per cosa, insomma, perché oggi raccogliamo i cocci di una costruzione selvaggia che è servita a poco o nulla, ecco. Sì. La vocazione di Daniele è veramente quella, la difesa dell'integrazione tra quello che è il costruito dell'uomo e quello che è il costruito della natura. Sì. E questo è un tema che io ho sempre trovato estremamente importante ed estremamente affascinante. Sì. Alessandro, oltre al percorso festivaliero, in prospettiva chiaramente immagino che ci sia una forma di uscita. State lavorando in tal senso? Ma guarda, di questo si occupa Alessandro Melazzini, che è il produttore del film, sì. Che con Alpenway ha sostenuto questa impresa, devo dire, anche con molto coraggio, perché alla fine io ci sono buttato a pesce nel 2013 e Alessandro fin dall'inizio ha saputo e creduto valesse la pena investire del proprio nel film, e quindi forse è una domanda che andrebbe posta a lui, nel senso che io per il momento mi limito a seguire le sue direttive. So che ci sono delle televisioni interessate, ovviamente, ma sono cose che sta finalizzando Alessandro, per cui non ne conosco i dettagli. E però in chiusura possiamo lasciare dei riferimenti web per saperne di più. Allora, per seguire il film, vedere la cartella stampa e il trailer, lo si può fare all'indirizzo alpenway.com/k, e lì trovate tutte le informazioni sul film e potete essere aggiornati sul percorso che il film sta facendo. Bene. Allora Alessandro, a questo punto ci diamo appuntamento per l'uscita in sala. Ringrazio e senz'altro vediamoci all'uscita in sala. Ricordiamo il documentario La nostra pietra che comincia ora il suo percorso festivaliero. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Sece. Alessandro, un abbraccio. A te, grazie mille. Ciao. Con Alberto Lastrucci, direttore della 59esima edizione del Festival dei Popoli, Festival internazionale del film documentario a Firenze dal 3 al 10 novembre. Alberto, ben trovato. Ciao, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Raccontaci. Festival dei Popoli propone quest'anno un programma di 89 film sospesi tra passato e futuro, nell'ambizione di cercare di fare il punto e di capirci qualcosa su questo complicato presente che stiamo vivendo. Mi riferisco al passato perché alcuni film ci porteranno a rendersi conto di quanto sia importante la memoria, quanto più questa è condivisa, e faremo anche un punto sull'uso degli archivi audiovisivi come tesoro collettivo da preservare e da portare anche all'attenzione dei più giovani. Per quanto riguarda il futuro, invece, con i nostri film ci siamo messi in ascolto, rispetto ai segnali che questo futuro ci sta mandando, ci sta inviando. Ci sono forti preoccupazioni per la salute dell'ambiente, del pianeta, ci sono anche nuove forme di tecnologia che cercano di migliorare le condizioni del nostro vivere, ma al tempo stesso vanno sempre monitorati perché potrebbero anche essere delle minacce. E tutto questo, ecco, lo cerchiamo di raccontare attraverso film di grande qualità cinematografica, ma con un'attenzione anche ai temi trattati. Alberto, ci sono delle sezioni? Competitive, il concorso internazionale e il concorso italiano, il festival si articola in una sezione dedicata ai documentari musicali, da sempre i più amati dal nostro pubblico. La sezione Habitat, che ho appena menzionato, sospesa tra pericolo ambientale e prospettive tecnologiche, una sezione nuovissima che si chiama Kinder Docs e che vede il Festival dei Popoli aprirsi agli spettatori più giovani, ci saranno proiezioni per le scuole e per le famiglie e naturalmente poi anche una serie di eventi speciali, cioè film ad altro contenuto spettacolare. Segnalo anche Doc Explorer, nuova sezione dedicata alle nuove forme di narrazione attraverso anche la tecnologia in cui si potranno vedere web doc, VR, live documentary e altre forme di racconto che non hanno più bisogno della sala cinematografica, ma si possono, infatti gli eventi si svolgeranno in altri luoghi del festival. Un modo per fare il punto anche sulle nuove tecnologie, le nuove forme di racconto che mescolano in proficua connubio con il documentario, che ha un linguaggio più classico. I luoghi e gli orari del festival. Il festival si tiene in tre sale della città di Firenze, al Cinema La Compagnia, allo Spazio Alfieri, all'Istituto Francese, e ci sono degli incontri con gli autori programmati la mattina e poi le proiezioni nelle tre sale a partire dalle 3 del pomeriggio fino alla tarda notte. E quali sono le tematiche più attraversate? Ma abbiamo fatto un po' il punto sullo stato di salute della nostra Europa, che è un continente che amiamo, ma al cui interno ci sono anche tante tante problematiche da affrontare, quella dei migranti che il festival negli anni continua a seguire, così come quella anche dell'ascesa al potere delle nuove destre, di gruppi paramilitari che si propongono di fare facile giustizia. C'è un'Europa invece del territorio, delle risorse agricole. Ci sono molti film che ci raccontano anche di come le campagne e la provincia possono essere anche viste non solo come fonte di problemi, ma come delle risorse, dei laboratori in cui si stanno mettendo a punto nuove forme di socialità e di convivenza. Quindi un'Europa che guardiamo con attenzione, anche con un po' di preoccupazione, ma non vi nego che c'è sempre dappertutto una grande voglia di miglioramento. Naturalmente il festival non è un festival solo europeo, ma riceviamo opere da tutto il mondo, per cui sarà modo di parlare della complicata situazione politica in Brasile alla vigilia delle nuove elezioni. C'è un film molto importante che ci racconta dei primi 100 giorni di presidenza di Donald Trump, combattuti mediaticamente, perché tutti, come ben sapete, Trump si è scagliato contro i giornalisti e contro la libertà di stampa, e la libertà di stampa si fa nelle redazioni dei giornali, per cui i 100 giorni di Trump visti attraverso la redazione del New York Times, una delle testate più importanti del mondo. È prevista anche la presenza di alcuni autori? Certo, quasi tutti i film sono accompagnati dai loro autori. Consideriamo di avere a Firenze circa una settantina di registi di tutto il mondo. Per me è la cosa più emozionante poter incontrare tutti questi talenti, metterli in relazione, farli conversare fra di loro e naturalmente con il pubblico, per cui il festival, come ogni volta, si manifesta come una cosa da vivere al presente, dal vivo, bisogna esserci per poter avere la possibilità di parlare con questi cineasti. Ci lasci in chiusura i riferimenti web per la programmazione? Sì, trovate tutto sul nostro sito www.festivaldeipopoli.org. E allora ricordiamo la 59esima edizione del Festival dei Popoli, Festival Internazionale del Film Documentario, a Firenze dal 3 al 10 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alberto Lastrucci. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, vi aspettiamo al cinema. Con Vincenzo Vita dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per parlare della iniziativa Il 68, giornate di studi e rassegna cinematografica dal 3 al 13 novembre in più luoghi della città: Casa del Cinema, Cinema Trevi, la Galleria Nazionale e Università Roma 3. Vincenzo, ben trovato. Sì, grazie, buonasera agli ascoltatori e a tutti voi. Ci racconti? Ma intanto l'ennesimo anniversario, io non sono tanto sensibile agli anniversari, ci sono rituali, però questo ha un qualcosa in più, perché il 68 non è stato solo un anno cronologico del calendario gregoriano, diciamo così, è stato un punto di svolta per l'Italia, ma per il mondo, e quindi rievocarlo ha un senso particolare in questa sequenza, diciamo, di anniversario, che è una sequenza tonda perché è il 50esimo, e soprattutto sul piano della cultura, della produzione cinematografica, a cui si applica l'archivio audiovisivo per, come dire, il suo ruolo deontologico in un certo senso. Il cinema, la cultura nel 68, o meglio, un po' prima e dopo, perché il 68, come sanno coloro che ci vissero almeno come giovani adulti, non è stato solo il 68, è un percorso più lungo. Ecco, il cinema e la cultura sono stati momenti fondamentali per la vita italiana, non tanto e solo sul piano di quella che veniva chiamata molto riduttivamente la contestazione, ma sul piano del cambiamento del clima culturale, cioè l'Italia divenne un paese più moderno grazie proprio a quelle lotte del 68 che hanno consegnato materiali straordinari, insomma, alla cultura, e in questo caso nel cinema le nostre rassegne, appunto, sia alla Casa del Cinema sia al Cinema Trevi, il convegno che si terrà il 5 dell'arte moderna, vogliono testimoniare appunto tante tante cose che magari non si ricordano più. Come saranno articolate le giornate? Sì, allora c'è l'ouverture, come si dice, diciamo, nelle cose ufficiali. L'ouverture il 3 di novembre alla Sala Deleuze, Deleuze, un filosofo che mi piace, Deluxe della Casa del Cinema, che è in largo Mastroianni a Roma, perché spesso si pensa che Roma sia tutto il mondo, anche chi non è di Roma, diciamo, Porta Pinciana, via Veneto, la Casa del Cinema è molto nota, almeno a quelli che amano questa parte fondamentale. Le 16 con presentazione di uno dei curatori della manifestazione nel suo insieme, Giovanni Spagnoletti, professore diciamo cinefil, come detto allora, con un film di eccezione che perché ha fatto il 68, io ero un ragazzino, poi stavo pure a Milano, quindi, ma comunque è una figura mitica, Alessandra Bocchetti, femminista, poi impegnata in tante cose che andavano al di là, che in quanto filmmaker, diciamo così, fece una mezz'ora proprio di cinegiornale. Allora c'era questa tipologia estetica, cioè la rappresentazione, il racconto della realtà che non veniva raccontato dai telegiornali. Adesso poi si mitizza, per esempio, la Rai di quella stagione, no? La Rai come era bella, no, col tavolo, era una Rai molto di regime, che non faceva vedere se non cortei con qualche diciamo assalto della polizia, risposte degli studenti, ma la profondità di quel movimento non viene rappresentata, e qui c'è un tentativo importante, è un film d'epoca da rivedere, e poi si va avanti con tante cose. Cito l'esperienza di Terzo Canale, Sicilia l'inganno della pietà, anche questo era del PC, diciamo così, un esperimento di controinformazione. Terzo Canale, perché poi la terza rete, diciamo, della televisione, con protagonisti che in qualche caso poi erano gli stessi. C'erano i canali ufficiali, ma c'era un terzo che raccontava più da vicino al mondo, e poi c'è un omaggio, uno dei grandissimi, Bernardo Bertolucci, con un film veramente bello, Strategia del Ragno. Dopodiché ci sarà un omaggio non solo doveroso, ma sentitissimo ai fratelli italiani, Vittorio è scomparso recentemente, Paolo sarà presente con il direttore della Casa del Cinema Gosetti, Felice Lalladdio, Centro Sperimentale, Pietro Montani, altro professore molto importante, significativo, appena andato, diciamo, è diventato emerito ormai in pensione alla Sapienza, maestro di tanti studiosi, e il sottoscritto nella veste di presidente dell'Archivio di Visio, Paolo Taviani presenta il famoso I Sovversivi. Dico famoso perché è uno dei film della cinematografia dei Taviani più forti dal punto di vista politico-culturale. E poi domenica si procede, c'è Silvana Agosti, che tra l'altro è una figura persino mitica di quella stagione, poi Lotta alla Rodiatoce, Edili in cantiere come in guerra, insomma, ma adesso non vorrei leggere il programma, certo. Quanto ci sarà, però poi la domenica un incontro con l'altro grandissimo di quella stagione, Marco Bellocchio, e proprio Giovanni Spagnoletti lo introdurrà con uno dei film di generazione, parlo per me, uno dei film per esempio che mi ha fatto capire che sarebbe stato bello essere comunisti, e cioè famosissimo La Cinericina, cioè, i pugni in tasca, La Cinericina sono stati per molti di noi di quella generazione come dei romanzi sentimentali, insomma, dei punti di riferimento. E rivederli oggi, tra l'altro, è interessante, perché mantengono una forza espressiva che francamente, insomma, è invidiabile grandezza dei registi. Bellocchio e Bertolucci sono qui con noi, ma insomma si potrebbe andare avanti. Ho parlato degli italiani e potremmo fare un elenco molto, molto lungo. Il 5, dicevo, c'è il convegno che vuole tentare di riflettere complessivamente sul 68 nelle sue espressioni artistiche, cioè il cinema politico come riferimento del 68, cioè il cinema che diventa politico, perché lo è sempre stato il cinema politico, diciamo, a parte che ci sono storie straordinarie del cinema politico, pensiamo a Zigaletto, Eisenstein, ma il cinema politico vuol dire per l'esperienza italiana, europea, ma anche degli Stati Uniti, il cinema che affronta le cose della vita pubblica, cioè non si limita a raccontare qualche storia, diciamo, interiore, ma va oltre, e sulla base, insomma, di un'esperienza, quella del neorealismo, che già era un cinema politico e come in Italia, si fanno film politici, e questo viene raccontato con tanti interventi. Ci sarà la presentazione della sovrintendente Cristiana Collu, che ringraziamo, delle vie alte moderne, e poi Pietro Montani, Ermanno Taviani, della importante famiglia di Taviani, che insegna anche lui all'università, e è una persona di grande lucidità anche sul piano, diciamo, del racconto di quella stagione, che lui ha raccolto, no, come figlio, però è importante la sua presenza, sottoscritto ancora. E poi Spagnoletti, Montani, appunto Taviani, Peppino Ortoleva, storico, ex Santottino, e chi lo ricorda, come no, insomma, militante all'epoca di Lotta Continua, che però poi è un storico molto significativo, che parla della politica proprio, l'onda anomala. Dario Cecchi, più giovane, anche lui professore di cinema, Maresa D'Arcangelo, Domenico Monetti, Marco Maria Gazzano, che insegna a Roma 3 e che poi curerà la parte conclusiva che si farà proprio a Roma 3, in un'altra, diciamo, parte sempre attiva nell'attività dell'archivio, perché già in altre circostanze proprio Gazzano con Roma 3 hanno dato un contributo essenziale. Antonio Medici, che è il direttore tra l'altro del premio intitolato a Zavattini, che è una delle best practice, diciamolo così all'inglese, dell'archivio, Stefania Parigi, Cristian Uva, Antonio Capocasale, Fabiano Garofalo, Pietro Masciullo, Federico Lancialunga, che sta a Parigi e che ci ha portato degli inediti del Maggio Francese. E poi tanti film, una rassegna che si snoda appunto fino all'11, ingresso naturalmente libero. Ci teniamo molto a una presenza di giovani, perché l'obiettivo in fondo qual è dell'archivio? Questo vale per il 68 come è stato per il cinema russo l'anno scorso, il sovietico, fare capire, sperando, ecco, di farcelo naturalmente, come buoni maestri positivi, che in fondo la storia non è il passato ma è oggi l'elemento cruciale per capire il presente e ovviamente il futuro. Ecco, sul sito dell'archivio www.amod.it trovate anche i dettagli del programma, venite copiosi. Benissimo, ricordiamo allora l'iniziativa dal titolo Il 68, giornate di studi e rassegna cinematografica a Roma, la Casa del Cinema, al Cinema Trevi, Cineteca Nazionale, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Università Roma 3, dal 3 al 13 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Vita dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Vincenzo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. In lupo, anche se non si dovrebbe dire, perché giustamente protestano gli animalisti. Speriamo bene. Buona giornata e un saluto. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.